falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Anche oggi parliamo di musica, ma parliamo di quella musica che immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale cambiò la storia del mondo giovanile e del mondo in generale. Sto parlando del rock and roll, di quando nei jukebox suonavano le canzoni di Elvis Presley o di Chuck Berry. Bene, per 8 mesi, tra il 1958 e il 1959, in quei jukebox suonavano anche le canzoni del protagonista di oggi, di Ritchie Valens. Ritchie Valens è il nome d'arte di Richard Steven Valenzuela, americano di origini messicane, nato nella cittadina di Pacoima, nella San Fernando Valley, non lontano da Los Angeles. Oggi è una zona un po' particolare per gli Stati Uniti, è una specie di Silicon Valley del porno, ma purtroppo per tutti noi questo non riguarda la nostra storia, che inizia invece molti anni fa. Inizia il 13 maggio del 1941. Richard Valenzuela nasce da Joseph Steven e da Concepcion Reyes, famiglia di chiare origini messicane. È una famiglia povera, con il padre che si guadagna da vivere nel commercio del legname, mentre la madre fa l'operaia in una fabbrica di munizioni, quindi molto americana la cosa. L'infanzia di Richard è tranquilla, ha i genitori, ha un fratellastro, Robert Morales, è una infanzia immersa nelle tradizioni latine che la famiglia coltiva orgogliosamente. E non ultima, naturalmente, tra queste tradizioni c'è la musica. Il piccolo cresce ascoltando la musica tradizionale messicana, il tipico folk mariachi, ma anche le sonorità delle chitarre flamenco, oltre al rhythm and blues e al cosiddetto jump blues, che è il vero precursore del rock and roll. Molto presto Richie comincia a amare gruppi vocali in voga in quel periodo, i Krauss, i Penguins e i cantanti come Little Richard e Buddy Holly, l'uomo del suo destino. All of my love, all of my kissing, you don't know what you've been missing, oh boy, oh boy, when you're with me, oh boy, oh boy, the whole world can see you at me. Richie inizia a appassionarsi alla musica e a maneggiare diversi strumenti già a 5 anni. Viene incoraggiato dal padre, a 9 anni impugna una chitarra, prova a suonare anche la tromba e più avanti si cimenterà anche con la batteria. Insomma, è un vero e proprio polistrumentista in erba. Nel 51 la famiglia Valenzuela vive un momento difficile perché muore il padre Steven e Connie, la madre, che nel frattempo ha avuto 2 bambine, deve trasferire la famiglia in una casa piccolissima a Fillmore sulle sponde del fiume Santa Clara. La situazione della famiglia, che già non navigava nell'oro, sfiora l'indigenza. Questo non impedisce a Richie di coltivare la sua passione. La sua prima chitarra però ha solo 2 corde. Un vicino di casa un giorno lo vede mentre cerca di suonarla, allora gliela prende, aggiunge le corde mancanti, gli insegna alcuni accordi. La passione del bambino è travolgente e nonostante sia mancino impara a suonarla con l'impugnatura tradizionale, cioè da destrorso. La chitarra è la sua fortuna già ai tempi della scuola, non se ne separa mai, neanche quando entra alla Pacoima Junior High. Ogni momento è buono per strimpellare qualche motivetto o per cantarci sopra. La sua passione per la musica prende corpo. Ecco come ricorda quel periodo la madre, Concepcion Reyes. Suonavano sempre, casa per casa, a Pacoima. Hanno iniziato così a fare pratica, era la loro sola occupazione. Non sapevano che fare di loro stessi. Ricci ha 13 anni, viene invitato a tutte le feste, alle riunioni studentesche, suona, canta con un repertorio di canzoni frutto delle influenze musicali di cui abbiamo già parlato, ritmi messicani, folk, nei quali però si sente già un sound più americano. Sono le premesse del suo particolare rock and roll. A scuola diventa rapidamente popolare, come capita spesso a quelli che suonano sul palco, in realtà anche prima di diventare famosi, insomma, quelli che suonano sono un po' diversi dagli altri a scuola, magari a volte devono solo accompagnare con la chitarra quelli che stanno limonando, però gettano le basi per essere loro poi a fare incetta di donne quando la chitarra comincerà a darti le prime soddisfazioni. Comunque Dave Schwartz, preside della sua scuola, lo ricorda così. At noontime we used to walk around the campus. All'ora di pranzo facevo un giro per il campus per assicurarmi che non ci fossero problemi, che non avvenissero delle scazzottate o cose del genere. Passando vicino alla mensa ho visto una grande folla e mi sono detto: oh oh, ecco che ci risiamo, ci tocca sedare un'altra rissa. Avvicinandomi ho visto che c'era un ragazzo che cantava e strimpellava con la chitarra. Era la prima volta che sentivo Ricci cantare e vedevo che tutti i ragazzi attorno a lui erano entusiasti. E mi chiesero se era tutto ok, dato che, sapete, noi non permettevamo questo genere di assembramenti. E io risposi: potete scommetterci che è ok. Ricci, per quel che mi riguarda, tu puoi venire ogni giorno all'ora di pranzo. E quindi Ricci ottiene sul campo il suo primo successo, forse quelli più veri, quelli in cui non hai bisogno della promozione, devi dimostrare quello che vali. In più è un bel ragazzo e soprattutto ha carisma, le ragazze sono il suo pubblico preferenziale nella sua scuola. A 16 anni fa un provino per entrare in una piccola band locale che si chiamano Silhouette, però fa un provino solo come chitarrista perché il gruppo ha già un cantante. Ricci ne prende il posto nel giro di poco tempo per manifesta superiorità. Diventa quello che si definisce il frontman del gruppo. Quindi in quel periodo somma le sue esibizioni con questi Silhouette a dei piccoli show da solista accompagnato dalla sua inseparabile chitarra. Si esibisce soprattutto a feste, eventi, diventa una piccola celebrità locale e quindi il suo rock and roll agita gli animi dei teenager della sua città. Questo è il ricordo del suo amico e musicista Gil Rocha. Ricordo di questa serata in un cinema locale. La gente veniva a sentirlo suonare. Gli ho detto: Ricci, fai tremare il palazzo. Tutti erano impazziti, erano incantati dal suo magnetismo. Il tempo della scuola e delle feste per Richard Valenzuela sta per finire, perché sta per arrivare tutto in così poco tempo. Il successo e non solo quello. Torniamo a parlarne tra pochissimo. Il Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Richard Valenzuela, che sta per diventare Ricci Valens. In soli 17 anni e 8 mesi di vita e di carriera, questo ragazzo è riuscito a conquistarsi uno spazio nella storia del rock and roll. Sta per affacciarsi alla grande ribalta che, ahimè, lo vedrà protagonista veramente per poco. Ma intanto siamo alla fine degli anni 50, siamo nel 58. Lui sta vivendo in povertà con la famiglia, inizia a frequentare una coetanea e compagna di scuola, Donna Ludwig, che sarà una persona molto importante per lui. Intanto il suo talento si sta manifestando. Lui ha 16 anni, suona e canta negli eventi scolastici e cittadini, improvvisa spettacoli, ha una caratteristica particolare perché improvvisa strofe inedite e aggiunge riff a canzoni famose, se le inventa mentre canta. Insomma, è un predestinato e finalmente arriva la grande occasione. Il proprietario di una minuscola casa discografica di Hollywood, la Delphi Record, sente parlare di questo ragazzino e delle sue esibizioni alla Pacoma High School. Lo definiscono il Little Richard della vallata e, incuriosito dal paragone, Bob Keane va a sentirlo in uno spettacolo mattutino in un piccolo cinema. Keane riconosce subito il talento di Richard e lo invita per una audizione a casa sua nella zona di Los Angeles. Questo signore vuol parlare con te. Ciao Richie, ti posso dare del tu? Mi chiamo Bob Kim, presidente della Dissidenti di Hollywood. Podemos hablar? Io non parlo spagnolo. Ma sappiamo parlare d'affari. Senti, diciamo così che io... mi sta bene la tua musica. E vorrei farne dei dischi. Che ne dici? Benvenuto alla Dischi Delphi. Io lavoro qua in cantina. E il vostro studio di incisione? L'Ampex è buono, i microfoni ottimi. Che altro ti serve? Calma, Ricci. Questo è per cominciare. In effetti è proprio come viene raccontato nel film La Bamba, il film su Ricci Valens. Lo studio è fatto in casa e ricordiamoci che in quegli anni c'era una bella differenza tra gli studi fatti in casa e gli studi che andavano per la maggiore. Non è come oggi che un ragazzo con un buon computer può fare dei dischi quasi al livello dei professionisti. Allora siamo ancora a un registratore portatile Ampex a due tracce e un paio di microfoni Neumann. È poca roba, però è sufficiente per il provino e per le prime registrazioni ufficiali, anche perché il ragazzo ha motivazioni fortissime e la convinzione che diventerà prima o poi una star. Non solo ha voglia di vivere di rock and roll, ma è spinto anche dalla fame, dallo stato di necessità. Vuole fare soldi per aiutare la madre e la sua famiglia e per lasciare quel buco fatiscente in cui vivono. Sentiamo il suo scopritore Bob Keane e la sua ragazza di allora, Donna Ludwig. Avevano una piccola casa di legno con un giardino dove alcuni di loro dormivano. Era lì che Ricci dormiva. Questo ragazzo che sembrava un toro e che strimpellava sulla chitarra con il suo piccolo amplificatore. Il principale scopo della sua vita era realizzare dei dischi e guadagnare dei soldi per comprare una nuova casa per sua madre. E questa era l'unica cosa di cui parlava. Lui aveva sempre saputo che sarebbe diventato famoso, semplicemente lo sapeva. A scuola, quando facevamo dei concerti, faceva semplicemente tremare la sala e noi facevamo semplicemente rock and roll. Il tempo delle feste sta finendo, adesso Ricci ha preso la strada per il successo e deve cambiare nome, da Richard Valenzuela diventa ufficialmente Ricci Valens. Sentiamo ancora Bob Keane. Essere latinoamericano avrebbe potuto creargli dei problemi, quindi decise di cambiare nome, così nessuno avrebbe domandato chi fosse, fino al momento in cui fosse riuscito a ritagliarsi il suo spazio di fronte alla gente. 27 maggio 1958 è il giorno della firma del contratto con la Delphi Record e Ricci inizia a registrare demo su demo. All'inizio Keane lo costringe a lunghissime sessioni solo voce e chitarra perché cerca di correggere quella tendenza di Ricci a cambiare le canzoni a ogni registrazione, che è un tipico virtuosismo mariachi che in sala di registrazione non va bene. Decine e decine di prove, finalmente Ricci registra con una band ai Gold Star Studios la sua prima canzone, diventerà il suo primo vero successo. Come on, let's go. Suo primo singolo, da immediato successo locale all'inizio dell'estate del 58, in agosto viene passato da tutte le radio degli Stati Uniti e in pochissimo tempo raggiunge le 500.000 copie vendute. Il disco successivo ha su un lato quella che sarà la sua canzone più venduta di sempre, Donna, dedicata alla sua fidanzata di allora, Donna Ludwig. Ho incontrato Ricci quando avevo 15 anni ad una festa presso un club automobilistico e ho iniziato ad uscire con lui più tardi, quando l'ho rivisto a scuola. Quando scrisse Donna, mi chiamò al telefono. Ricci me la cantò e mi disse solo che aveva scritto una canzone per me, ma non disse che l'avrebbe incisa. Un paio di mesi dopo ero in macchina con le mie amiche e c'era lui alla radio. È stato grande. Il singolo Donna balza subito in alto nelle classifiche, fino al secondo posto. Ma sul lato B di quel disco c'è un'altra canzone, un pezzo in spagnolo con qualche riff di chitarra. È La Bamba, che non supera il 22esimo posto nelle hit, ma che rimarrà forse la canzone più legata al ricordo di questo cantante. Torniamo tra poco con la storia di Richie Valens. Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di questo lampo che ha squarciato l'universo del rock and roll per un periodo, ahimè, brevissimo. È la storia di Richie Valens, un ragazzo di origini messicane che libera se stesso e la sua famiglia dalla povertà grazie al suo enorme talento. Stiamo parlando di un ragazzo che in questo momento ha 16 anni, ma è già un idolo delle ragazzine e non solo. Ha pubblicato dei singoli, Come On Let's Go, Donna e La Bamba. È il re dell'estate 1958. Nell'autunno di quell'anno Richie lascia la scuola e si concentra sulla carriera musicale. Il suo scopritore Bob Keane gli procura partecipazioni televisive una dietro l'altra. Per questo Valens deve superare una delle sue grandi paure, quasi un presagio: la paura di volare. È una paura che ha una ragione precisa nella tragedia avvenuta qualche anno prima. Due aerei si scontrarono proprio sopra la sua scuola, la Pacoima Junior High. I rottami caddero sul campo di gioco dell'istituto. Lui non c'era, però alcuni suoi compagni rimasero uccisi, altri gravemente feriti. Fatto sta che Richie supera questa paura perché deve volare attraverso il paese. Va a Philadelphia al Dick Clark American Bandstand, e lo show televisivo dedicato al rock and roll. Poi va alle Hawaii, dove canta con Buddy Holly e Paul Anka, e poi vola a New York per lo show leggendario, quello di Alan Freed, un disc jockey popolarissimo. Comincia a esibirsi con alcuni dei suoi idoli di sempre: Chuck Berry, gli Everly Brothers, Eddie Cochran, per dirle solo alcuni. Sentiamo ancora Donna Ludwig. Era così eccitato all'idea di poter incontrare delle celebrità ed era veramente entusiasta di poter conoscere Buddy Holly. Al suo ritorno a Los Angeles, Richie viene addirittura scelto per il film di Alan Freed, Go Johnny Go, con Chuck Berry come protagonista. È una piccola parte. Richie canta Oh My Head, suona una chitarra Gretsch 6120, la stessa chitarra di un altro suo idolo, Eddie Cochran. You're dead, man. What's next, Chuck? Haven't you had enough excitement for one night? You must have had about 1,000 phone calls. More than that. Yeah, everyone but the right one. You had the right one, huh? Well, we always got Richie Valens to soothe your jangled nerves. He's swinging. Crazy. Like, hey, entertain Mr. Freed. He might even play your record if you rock him enough. Siamo all'inizio del 1959, Richie Valens è in tour attraverso il Midwest americano. È un tour con diversi artisti e band, sono tutti gli esponenti del giovane rock and roll emergente. Si chiama Winter Dance Party. Con Richie ci sono Buddy Hollins e Big Bopper Richardson. The Winter Dance Party, a three-week jaunt through the heart of the Midwest, the part of America that freezes solid in February. There was Richie Valens, the Big Bopper, Frankie Sardo, Dion and the Belmonts, and Buddy Holly, along with his three new sidemen, Waylon Jennings, Tommy Alsup, and Charlie Bunch. Beh, stiamo parlando di un ragazzino che un anno prima andava in giro per la sua scuola e per le festicciole con una chitarra in mano, quindi un tour di grande prestigio. Quei tempi i suoi compagni sono artisti affermati, anche se anche loro sono giovanissimi. Soprattutto c'è Buddy Holly. E Richie non è un comprimario, perché ormai è una star di prima grandezza. Hi everybody, this is Richie Valens. I will be on the Winter Dance Party coming your way very shortly. I will be having the ball singing for you, and I hope to see you all real soon. Però le condizioni di quel tour sono terribili. Stiamo parlando di 24 città da coprire in 3 settimane, dal 23 gennaio al 15 febbraio. Ci sono problemi logistici notevoli da risolvere, vista la distanza tra una città e l'altra. Gli artisti e gli strumenti viaggiano a bordo di un autobus che si rivela subito inadatto a spostarsi attraverso quel freddissimo inverno, spesso in mezzo alla neve. Un membro della band di Holly, il batterista Carl Bunch, viene addirittura ricoverato in ospedale per un principio di congelamento ai piedi. Lo stesso Valens, insieme a Big Bopper, prende l'influenza. Si devono talmente arrangiare che il batterista, che è in ospedale in alcune date, viene sostituito prima da Buddy Holly e poi dallo stesso Valens. C'è anche una foto a colori che lo ritrae seduto alle percussioni. È concentrato ma sorride. Il tour ormai è vicino alla fine, una fine inaspettata, perché sta per arrivare quello che in America è ricordato come The Day the Music Died, il giorno in cui morì la musica. You both kicked off your shoes. Nel Winter Tour c'è solo un giorno buco, il 2 febbraio, è quello che noi chiamiamo il day off. Allora gli organizzatori chiamano il manager della Salf Ballroom di Clear Lake in Iowa e gli propongono una data, un last minute per il 2 febbraio. Gli artisti arrivano al locale che sono stanchissimi, hanno viaggiato su un pullman ormai rattoppato, sono infreddoliti. Buddy Holly in particolare è arrabbiatissimo, propone di noleggiare un volo charter per lo spostamento successivo, che devono andare a Moorhead, da dove avrebbero dovuto raggiungere Fargo. Holly è arrabbiatissimo, non ha un cambio di biancheria a disposizione, la lavanderia è chiusa, insomma ci sono una serie di disagi. Viene organizzato questo trasferimento con un giovanissimo pilota che si chiama Roger Peterson, che vola con un piccolo aereo da turismo. Ha poca esperienza in generale e nessuna in condizioni meteo difficili, ma questo, ahimè, si scoprirà dopo. Il prezzo concordato è $36 a testa per 3 passeggeri in tutto, quello che può contenere il piccolo aereo. 3 posti liberi. Beh, che Buddy Holly salga sull'aereo è scontato, perché l'ha voluto lui. Big Booper ha avuto l'influenza, non se la sente di rifare un viaggio a bordo di quell'autobus ghiacciato. Chiede a un musicista di Holly di cedergli il posto e questo Waylor Jennings gli dà questo posto, acconsente. Con Buddy Holly parte qualche battuta, sono normali sfottò, del resto sono tutti poco più che ragazzi, però sono parole che col senno di poi lasceranno una traccia. Questo è il ricordo di Waylor Jennings. Quella notte Buddy era seduto con la schiena appoggiata al muro e scherzava con me. Mi dice: torni in aereo stanotte? E io rispondo: no. E lui: beh, spero che il tuo vecchio autobus si congeli. E io gli rispondo: e io spero che il tuo vecchio aereo precipiti. Sai, era terribilmente giovane. Mi ci è voluto molto tempo per farmene una ragione. Sono le frasi che noi diciamo migliaia di volte nella vita e non ce ne ricordiamo, tranne magari quella volta in cui pensiamo che questa frase non avremmo mai dovuto dirla. Dunque, anche Richie Valens è raffreddato, non ne vuole sapere del pullman, non ha mai volato su un aereo da turismo, però chiede a un altro musicista che si chiama Tommy Alsap di cedergli il posto. Tommy ha una monetina in tasca, si giocano il posto a testa o croce. Bene, Richie vince, se così si può dire. Sale su quell'aereo e Tommy, che ha perduto, resta a terra. È da poco passata l'una di notte del 3 febbraio del 1959, una data che l'America ancora oggi non ha dimenticato. Il piccolo aereo pilotato da Roger Peterson decolla dall'aeroporto municipale di Mason City con a bordo i 3 artisti. Pochi minuti dopo, il proprietario della compagnia privata dal quale Holly ha noleggiato l'aereo vede le luci del velivolo scendere invece che salire. Alla torre di controllo non arrivano nemmeno le previste comunicazioni del pilota che dovrebbe indicare il piano di volo. L'allarme scatta un paio d'ore dopo, alle 3:30, quando si ha notizia che all'aeroporto di destinazione, quello di Fargo, l'aereo non è mai arrivato. La mattina alle 9:15 il proprietario della compagnia aerea ripercorre anche lui con un piccolo aeroplano la rotta che Peterson avrebbe dovuto seguire. Non ci vuole molto per capire cosa è successo. I resti dell'aereo e i corpi degli occupanti sono sparsi in un campo di grano turco a 8 km a nord-ovest dall'aeroporto. Interrompiamo il programma per una notizia dell'ultima ora. Tre giovani cantanti che avevano raggiunto la vetta del music business nella nuova mania del rock and roll sono morti oggi in un incidente aereo che si è verificato durante la tempesta di neve dello Iowa. I cantanti sono stati identificati come Richie Valens, 17 anni, Buddy Holly, 22, e J.P. Richardson, noto con il nome d'arte di Big Bopper. L'aereo, che faceva parte della flotta Dewar Flying Service, si è schiantato vicino a Mason City, che per ironia della sorte è stata il set del famoso musical The Music Man. Anche il pilota Roger Peterson di Clear Lake, Iowa, è rimasto ucciso. La scorsa notte i tre cantanti si erano esibiti al Surf Ballroom di Clear Lake, Iowa, ed erano diretti a Fargo, nel North Dakota. Il piccolo aereo da turismo si è schiantato nei pressi di una fattoria isolata, a circa 15 miglia a nord-ovest di Mason City. A small chartered plane crashed in a lonely farmyard about 15 miles northwest of Mason City. Corpo di Richie Valens, la promessa spezzata del rock and roll, è riverso a terra a 6 metri dall'aereo. Vicino a lui c'è Buddy Holly. I cadaveri di Big Bopper e del pilota sono a 50 metri di distanza. Il coroner dirà che sono morti tutti sul colpo, nell'impatto al suolo. L'inchiesta chiarirà che lo schianto fu causato dalle condizioni del tempo avverse e da un errore del pilota che ha confuso gli indicatori di altitudine. Credeva di salire e invece perdeva quota. La notizia sconvolge l'America, travolge i familiari e gli amici dei cantanti, tra questi la sorella di Richie, Connie. We had a schoolmate come and say, Ricordo questo suo compagno di scuola che mi chiede: sei la sorella di Richie Valens? E io gli rispondo: è morto. Lui protesta: non è morto, sei solo gelosa. Gli dico: l'abbiamo sentito nel notiziario. Quando sono tornata a casa, la mamma era seduta, circondata da altre persone. L'ho abbracciata e le ho detto: non è Richie. Mamma, no. Mi ricordo che sono caduta in ginocchio e ho nascosto la testa nel suo grembo. Poi è arrivata Donna con sua sorella e ci ha abbracciate e ci teneva strette. Lei piangeva e noi piangevamo. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Molti anni dopo, nel 1971, Don McLean scrisse una canzone su quel giorno, il giorno in cui la musica morì. La canzone si chiama American Pie. Richie Valens è ricordato nella Rock and Roll Hall of Fame e ha una stella sulla Hollywood Boulevard, pur essendo un musicista scomparso a poco più di 17 anni. Le sue canzoni sono state protagoniste di una breve stagione, ma hanno influenzato decine di grandi artisti, come ricorda l'attore Lou Diamond Phillips, che ha interpretato Valens nel film La Bamba. Bisogna rendersi conto che la sua carriera è durata solo 8 mesi, dal momento in cui è stato scoperto e ha realizzato il suo primo disco fino al 3 febbraio del 59. Chissà cos'altro avrebbe potuto fare, visto che aveva le palle, ma anche il fascino e il talento. Questa era la meravigliosa e tragica storia del brevissimo sogno di Richie Valens, che riscatta una vita di miseria, diventa una star del rock and roll e afferra il suo sogno per pochi mesi, perché muore a 17 anni. rimanendo comunque nella storia della musica. Ci sono delle storie spesso sconosciute di persone che nella loro vita hanno saputo darlo questo colpo d'ala, hanno saputo volare in alto e fare cose che hanno lasciato un segno. Storie di chi è riuscito, di chi ha avuto cadute e di chi ha avuto risalite. Se qualcuno di voi ha delle storie da consigliarci, che lo faccia e noi poseremo il nostro microfono sulle nostre e sulle sue idee. Mandateci i vostri commenti scrivendo a ilfalcoilgabbiano@radio24.it. Ciao, a domani. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.